Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1867, fucilato l'imperatore del Messico. Viva Mexico! È finita così, con una scarica di fucileria che lo ha ucciso come un bandito qualunque. Massimiliano I, casa degli Asburgo, imperatore del Messico dal 1864 per volontà, per imperio, decisione della Francia di Napoleone III, è stato fucilato dai suoi stessi sudditi che hanno restaurato la Repubblica alle ore 6:40 del 19 giugno di questo 1867. Una vicenda che dimostra quanto poco in politica valga l'onore e anche l'onore di un imperatore dei francesi. Napoleone III, 5 anni fa, approfittando della guerra di secessione americana, è intervenuto in Messico. Con un plebiscito di legalità dubbia perché sotto minaccia delle truppe del generale Forey, il presidente in carica Benito Juarez è stato dichiarato decaduto ed è stato proclamato l'impero. Massimiliano, fratello minore del sovrano austriaco Francesco Giuseppe, è parso il candidato ideale per la scomoda poltrona. L'uomo, che pure è intelligente e coraggioso, è stato evidentemente ingannato. Nonostante il parere contrario del fratello, ha accettato e il 28 maggio 1864 è sbarcato a Veracruz. Fin dall'inizio però la guerriglia dei liberali messicani cappeggiati dallo Juarez lo ha messo in difficoltà. Per di più il nuovo imperatore, dopo aver scelto come erede Agustín dei Turbi dei Green, nipote di Agustín I che aveva brevemente regnato nel 1820, ha adottato molte delle politiche liberali proposte dall'amministrazione Juarez, come la riforma terriera, la libertà di religione e l'estensione del diritto di voto ai contadini, e si è così inimicato anche i conservatori che lo avevano voluto. La svolta decisiva si è avuta però con la fine della guerra civile in America. Gli Stati Uniti hanno cominciato a rifornire di armi i repubblicani messicani. Nel 1866 Napoleone III, di fronte alla resistenza messicana e all'opposizione degli Stati Uniti, ha compiuto un vero voltafaccia. Ha deciso di ritirare le sue truppe. A nulla è valso il viaggio in Europa per cercare appoggi dell'imperatrice Carlotta, moglie di Massimiliano. La sovrana ha infatti subito un collasso emozionale ed è stata ricoverata. In questo 1867, per senso dell'onore, Massimiliano si è rifiutato di abbandonare i suoi sostenitori. Assediato a Querétaro, ha resistito per alcune settimane, poi ha cercato di passare le linee, ma è stato catturato. Inutili le lettere di diversi sovrani d'Europa e di personaggi come Victor Hugo, Giuseppe Garibaldi. Silente è infatti rimasto il padrino politico di Juarez, cioè il presidente statunitense Andrew Johnson, che ha inteso così dare uno schiaffo all'Europa riaffermando la dottrina Monroe. La sentenza è stata eseguita da un plotone di 7 soldati che ha fucilato anche i generali Miguel Miramón e Tomás Mejía. Ancora riecheggiano le parole di Massimiliano di fronte al plotone di esecuzione. Mexicanos, muero por una causa justa, por la independencia y la libertad de México. Ojalá que mi sangre ponga fin a las desgracias de mi nueva patria. Quanto a Napoleone III, dopo questa infamia, ha solo allargato il fronte dei suoi critici. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.